Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono. Luca Salvioli è venuto a trovarci oggi, il nostro esperto di energia. Tra l'altro Luca Salvioli tiene anche un Twitter. Come si chiama? Sì, buongiorno a tutti. 24 Energia. 24 Energia, quindi twitter.com/24energia. Sì, no? È uno dei profili di Giornalisti del Sole e mi occupo di energia. Ecco, ci occupiamo di energia perché oggi parliamo della casa ecologica, per cui attenzione 824-0024, oggi abbiamo architetti, ingegneri, esperti che ci spiegano come risparmiare un po' di energia in casa e quella che potrebbe essere la casa del futuro. Stavi dicendo? No, dicevo che la casa, in effetti, c'è un simpatico tool, un piccolo grafico interattivo della Commissione Europea che è online da pochi giorni, dove si vede l'evoluzione di varie tecnologie da qua al 2050 per evitare le emissioni di CO2, no? E sono i grafici che si gonfiano in base alla loro importanza, e il risparmio energetico in casa è considerato il più importante, quindi parliamo di un tema molto attuale, sì, e strategico. Peraltro in Italia, insomma, non è un mistero, siamo super dipendenti dal petrolio, dai carburanti fossili, siamo super dipendenti quindi da una fonte che non abbiamo in casa e che quindi dobbiamo importare dall'estero, per cui perché no costruirci una casa che un po' di alleggerire una bolletta che è tra le più alte d'Europa, no? Esatto, pare che il 30% dei consumi del fabbisogno energetico sia dipenda proprio dai consumi domestici. Ma quindi insomma questo è il tema. Non perdiamoci in ciance e passiamo subito con il nostro primo ospite. Abbiamo Nino Frosio, che com'è che lo possiamo definire, Luca? Ma Nino Frosio è, diciamo, che è il fondatore dello studio Frosio, che fa consulenze per i progetti di idroelettrico. È membro di APER, associazione dei produttori di fonte rinnovabile, ma noi in realtà non l'abbiamo chiamato per questo. No, l'abbiamo chiamato perché, ma lo sentiamo subito nella scheda di Luca Salvioli. Nino Frosio ha 56 anni e ne ha vissuti 55 in affitto. Da un anno ha realizzato il suo sogno. Ha messo gli occhi su una villetta a Colle Beato, in provincia di Brescia, e ha deciso che quella era la casa per lui. Un'abitazione costruita negli anni 70, quando i criteri di efficienza energetica lasciavano molto a desiderare, completamente da ristrutturare. Il sogno di Frosio era proprio questo: invertire il paradigma della casa mangia energia. Come? Con i pannelli solari termici, il fotovoltaico, una pompa di calore, la coibentazione, l'utilizzo dell'acqua piovana per gli sciacquoni, l'irrigazione del giardino e la lavatrice, la cucina a induzione, il soffitto con il riscaldamento a radianti. Per lui quello della sostenibilità energetica è più di un pallino. È titolare di uno studio di progettazione di impianti idroelettrici e socio di APER, l'associazione di produttori di energia da fonti rinnovabili. Non potevo non mettere in pratica i miei principi, dice riguardo alla sua scelta. Come si fa a costruire una casa che non consuma energia? Già, come si fa a costruire una casa che non consuma energia? Lei è un ingegnere, lo diciamo subito. Lei ce l'ha fatta, lei l'ha costruita dall'inizio alla fine, quindi ci conferma implicitamente che questa cosa della casa ecologica non è marketing. No, no, assolutamente. È una scelta che può essere fatta, le tecnologie ci sono disponibili, sono anche diffuse, quindi non occorre andare a trovare imprese altamente specializzate, ma anche... Ma quindi c'è un fai da te, cioè è possibile farsela da solo la casa ecologica? No, non a questo punto, ecco. Il mio fai da te è stato quello di progettarla, perché okay. È il mio lavoro. Però intendo dire che anche imprese non troppo grandi, quindi imprese locali, sono in grado di utilizzare, istruite adeguatamente con un buon progetto. Ecco, facciamo subito, visto che siamo nella casa del sole 24 ore, quanto costa costruire una casa ecologica? Ecco, devo correggerla, non ho costruito una casa, ho ristrutturato. Ok, quanto costa, sì, ecco, creare un ambiente, quindi? Ecco, devo dire questo, che non è facilissimo stralciare i costi da imputare alla sostenibilità ecologica dei costi della ristrutturazione. Le faccio un esempio: io ho coibentato il tetto, per coibentare il tetto ho dovuto togliere il vecchio e a questo punto ho dovuto cambiare tutte le tegole perché non ce n'erano come quelle vecchie, quindi il costo delle tegole di rifare tutto questo in realtà non è esattamente un costo che va debitato alla sostenibilità. Facciamo però degli esempi. Pannelli solari, pannelli, immagino che ci sia il pannelli fotovoltaici. Io ho pannelli solari termici, sì. Sono 9 metri quadri pannelli solari che sì. mi danno acqua tutta estate e anche nelle giornate soleggiate invernali. E quelli, per dirle, ecco, diciamo, il mio intervento è stato qualcosa intorno ai 300.000 euro per mettere a posto tutta la casa. Ecco, con 300.000 euro che cosa ha ottenuto? Cioè la casa è a emissioni zero. Ecco, diciamo che 300.000 euro ho ristrutturato la casa, anche tutti i lavori necessari perché era molto vecchia. Circa il 15% di 30.000 euro può essere addebitato a renderla sostenibile. Ok. Quindi intorno ai 45.000 euro. Okay. In questa sostenibilità non c'è solo quella energetica, come accennato prima nella scheda, ma ho voluto fare anche il recupero dell'acqua piovana. Per e dal recupero dell'acqua piovana che cosa si ottiene? Cioè, si ottiene un risparmio dell'acqua potabile, cioè usare acqua potabile per innaffiare il giardino o per gli sciacquoni dei bagni, addirittura per la lavatrice adeguatamente filtrata, quindi acqua non calcarea, riduce anche il consumo dell'anticalcare e anche del detersivo. Questo è stato un po' l'obiettivo. Quindi ho dovuto adeguare anche gli impianti. Ecco, sì. Tra l'altro lui non ha ancora finito gli interventi, perché in realtà l'impianto fotovoltaico di cui tu, Luca, parlavi è in progetto, in Fieri. Sì, 5 diciamo, kW, insomma, un impianto kilowatt, notevole. Sì. Un impianto notevole perché ho una pompa di calore. Che mi Tra l'altro, perché spieghiamo, ecco, la pompa di calore, che quello è un tema abbastanza centrale. Funziona, nel senso, diciamo che funziona la pompa di calore. Sì, sicuramente. E la pompa di calore è un ottimo sistema per produrre acqua a bassa temperatura. E quindi, ecco, bassa temperatura cosa vuol dire? Intorno ai 70 gradi, diciamo. Vabbè, insomma. Per alimentare quindi del riscaldamento a bassa temperatura, essenzialmente a pavimento, o come ho fatto io a soffitto, perché avevo dei buoni pavimenti, non volevo distruggere la casa, e quindi ho fatto un pavimento, un riscaldamento radiante a soffitto. Radiante vuol dire che l'acqua passa. Radiante vuol dire che il trasferimento di calore, invece che avvenire per convenzione, cioè tramite movimento dell'aria, avviene per irradiamento, un po' come il sole, come si scalda il sole. Quindi è un tipo di riscaldamento che non muove aria, ha un grandissimo vantaggio che non muove polvere. Ah, beh. Questo è soprattutto in caso di allergie, è un punto molto importante. Quindi pompe di calore, progetto fotovoltaico, solare termico, coibentazione, quindi da un lato produzione di fonti rinnovabili, dall'altra si evitano le dispersioni, che sono un problema enorme, no? Delle case poi degli anni 70, come era la sua. Lei ha focalizzato il tema, perché è inutile buttare acqua in un secchio se hai buchi. Quindi per prima cosa è da chiudere i buchi. Certo. E quello che abbiamo fatto, appunto, è stato, ecco, coibentarla. Avete fatto un grande lavoro, ci sarebbe da chiedere, ma ci si vive bene in questa casa? Sì, cioè, magari, infatti. Perché sai, magari fa un intervento bellissimo. Poi però c'è poi un freddo pazzesco. Fa freddo, magari non funziona qualcosa. Si vive magnificamente. Lei però lo dice. No, però io cioè, lei non ha incontrato un problema che fosse uno? Qualche curiosità. Però io ho una testimonianza inoppugnabile, che sono i gatti di casa. Ah, stanno bene. Stanno loro. Bene. Quelli non sono influenzabili. E se stanno bene i gatti. Stanno bene tutti. No, diceva di qualche curiosità, mi interessava. Sì, no, una delle curiosità, perché è una casa molto tecnologica, devo dire, tutto è controllato da PLC, ogni stanza ha controllo di temperature, di umidità. E tutti questi sistemi elettronici sono molto belli, però ogni tanto sono anche molto curiosi. Mi succedeva che azionando gli sciacquoni del bagno partiva il videocitofono. Che è una cosa veramente curiosa. Cioè, non è così usuale. Sono gli ascoltatori che dicono: sì, ma la cifra è pazzesca, è altissima. Effettivamente è vero, nel senso che una spesa del genere è ingente per una casa, però è vero anche che ci sono dei risparmi notevoli. Sì, e bisogna intendersi, se gli ascoltatori intendono 300.000 euro, devono pensare a come la casa l'ho trovata, quindi ho dovuto rifare parecchie parti murarie, anche strutturali. Però queste io non le conto. Certo, e poi non è quella la cifra che ci interessa, no, è il 15%. Sono il 15%. Ecco, quindi attenzione, ripetiamolo, stiamo parlando di 45.000 euro per rendere una casa. Ed è una villetta. Una villetta di 250 metri quadri, e stiamo parlando di caldaia nuova, certo, e pompe di calore. Tutto l'impianto di riscaldamento. Oh, non si paga più bolletta, Cioè, sì, va detto, diciamolo questo tema qua. Non c'è più la lettera che ti arriva nella casella ed è un mezzo dramma. Sì. Però la domanda che fanno è centrale, nel senso che ci sono molti progetti d'avanguardia, questo è uno, un progetto molto interessante, ce ne sono alcuni di avanguardia a emissioni zero completamente, a zero consumi, che però rimangono ancora, non dico prototipi, ma progetti appunto di un certo livello. Molti dicono, però in casa mia come posso fare? Insomma, questo è un tema interessante che probabilmente qualche ospite dopo riuscirà anche a chiarirci meglio. Ecco, noi abbiamo anche in collegamento, e chiamerei Mario Butera, buongiorno. Buongiorno. Allora, sentiamo anche per lei una breve scheda, poi continuiamo a discutere di casa ecologica. Mario Butera ha due passioni, il risparmio energetico e la sua città. Nato 37 anni fa a Palermo, si è laureato in architettura a Milano, ha fatto il dottorato a Palermo e conseguito un master in architettura sostenibile a Losanna, in Svizzera. Fino al 2002 si è dedicato alla carriera universitaria, poi ha scelto la professione, aprendo lo studio Architetture Sostenibili a Palermo. Oggi lavora come architetto e consulente su progetti di risparmio energetico applicati all'edilizia in tutto il mondo. A Budapest ha ristrutturato un edificio facendo un utilizzo massiccio di pannelli fotovoltaici. Ora i suoi consumi energetici sono pari a zero. Curiosamente, è più difficile replicare lo stesso esempio in Sicilia, dove lo studio di Butera ha la sede, ma nessuna commessa. Nel resto del paese sono in corso diversi progetti. Di recente, l'architetto ha chiuso la realizzazione di 6 appartamenti a energia zero vicino ad Ancona. Allora, buongiorno Butera. Buongiorno. Allora, la cosa che ci stavamo domandando è: ma come mai Budapest? Cioè, perché c'è così poca attenzione in Italia? Ma diciamo che non è che ce ne sia così tanta neanche in Ungheria, è stato un caso semplicemente perché il Ministero dell'Ambiente aveva deciso di finanziare in parte l'opera di ristrutturazione di questo edificio, che è un edificio adibito ad uffici e centri conferenze per un'associazione no profit che si occupa della diffusione delle tematiche della sostenibilità nei paesi dell'est, e essendo cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente italiano ha voluto che i progettisti fossero italiani, quindi è stato un puro caso, diciamo, trovarsi a fare questo edificio. Fra l'altro c'erano tempi ristretti, neanche un gran budget, quindi in realtà una realtà giovane che sapesse essere più flessibile rispetto magari a studi più affermati ma più grossi e quindi più lenti a muoversi. È stata una casualità felice che ci ha permesso appunto di realizzare questa. Ecco, ma quindi in Italia non trova problemi, perché insomma a me ha molto colpito il caso Germania, cioè Germania che non è sicuramente un luogo soleggiato, quantomeno non è soleggiato quanto l'Italia, però ha più pannelli fotovoltaici dell'Italia. Anche l'Austria, del resto, per esempio, circa il 70% delle abitazioni austriache sono provviste di collettori solari termici per l'acqua calda sanitaria, mentre da noi la percentuale è molto più bassa. Perché? Diciamo che perché gli animassi, quello che le risposte possono essere due fondamentalmente. Uno è il fatto che i paesi del nord Europa hanno avuto sempre più problemi per riscaldare le loro case dato il clima e quindi hanno dovuto trovare soluzioni e alternative prima di noi. Il secondo può essere semplicemente dovuto al fatto che è un fatto di cultura, di attenzione a determinate problematiche e quindi semplicemente il fatto che nord europei sono più portati magari a pensare a determinate soluzioni ambientalmente più compatibili, comunque più vicine alla natura, che non il sud Europa. Non riesco sinceramente a trovare. Ecco, sentiamo anche Luca Salvioli, che è preparatissimo sull'argomento. No, più che preparatissimo, mi ricordo che Butera mi spiegava, adesso ce lo spiegherà meglio, che molte delle case che poi vengono portate anche in Italia come esempio di risparmio energetico partono con il modello, no, del nord Europa, quindi funzionano bene in estate, in alcune situazioni peggio in altre, non sono pronte a fronteggiare il caldo, invece sono meglio di fronte al freddo, vero? Sì, diciamo che chiaramente i precursori di questo tipo di tecnologie sono nord europei o comunque di paesi freddi, perché si sentiva di più la necessità di proteggersi dal freddo, cioè si sente di più la necessità di proteggersi dal freddo che non dal caldo. Diciamo, tranne in eccezioni di posti desertici dove effettivamente il caldo non è sopportabile per la salute, diciamo, dell'uomo, in realtà il caldo è più facile resistere al caldo, cioè rimanere vivi, diciamo, con qualche sofferenza, che non a condizioni di freddo limite. Quindi in realtà chi si è incominciato a porre il problema di come difendersi dal freddo e come evitare di spendere cifre immaginabili o comunque di consumare parecchia energia per farlo, sono chiaramente i nord europei. Ecco, resti in linea, Butera, perché ci sono moltissime domande per Frosio, ma domande un po' tecniche. Come funziona la pompa di calore? Lei è un ingegnere, per cui insomma al dono della sintesi. Pompa di calore è un frigorifero al contrario, quindi preleva il calore dall'esterno e lo butta, fuori all'interno. E mi chiedono, quindi anche va con delle sonde sottoterra? No, questa qui è una pompa esterna, quindi lavora in scambio con l'aria. Ecco, io che sono un po' genovese, cioè sono genovese, quanto costa la pompa di calore? La pompa di calore con annessi e connessi, adesso glielo dico, sui 2000 euro. Ah sì, 2 milioni già dice, vabbè, no. Chiudiamo, andiamo tutti a casa. Un'altra cosa, lei vende l'energia in eccesso? Cioè, questa è la domanda di Paolo, che è super corretta, cioè lei riesce a produrre talmente tanta energia da rispondere a quello che è il suo fabbisogno e a venderne sul mercato? Perché noi sappiamo che è possibile questa, c'è questa opzione. Sì. E non ho ancora un tempo di funzionamento che mi permette di rispondere alla domanda. Di fatto, teoricamente sono a livello dei consumi, quindi non dovrei venderla. Quindi il mio scambio è comunque sotto il livello del consumo. Ecco, Butera, torniamo a Butera. Sì, io ho due curiosità forti. Noi abbiamo visto prima il racconto della ristrutturazione della casa. La costruzione invece di una casa dalle fondamenta, cioè insomma da zero, è conveniente oggi una casa quindi ecosostenibile? Sì, sicuramente è conveniente, perché appunto, come diceva lei, permette di non considerare più i costi di bolletta, quindi una volta finita la casa completa, diciamo, con tutte le tecnologie che permettono di avere un bilancio energetico nullo, diciamo, fra energia prodotta e energia consumata, chiaramente non si spende più per l'energia. È chiaro che bisogna fare i conti sui tempi di ritorno di questo investimento, perché rispetto a una casa che è, diciamo, tradizionale, senza nessun tipo di tecnologia che permette di azzerare i consumi, costa di meno, ma poi ci sono le bollette. Quindi dipende chiaramente dal tipo di tecnologia, da dove siamo, dalla prestazione che si vuole raggiungere, quanto si spende in più per quanto tempo, diciamo, si deve ammortizzare questo sovracosto negli anni per riuscire a bilanciare anche economicamente il conto. Diciamo che in linea di massima effettivamente la percentuale che ha detto l'ingegnere è corretta, in realtà ci sono degli studi a livello europeo che dicono che è un po' più bassa se si tiene in conto il fatto che comunque una casa va costruita con determinati criteri di qualità, quindi se noi immaginiamo il modo di costruire, diciamo, una villetta standard nel nostro paese, che quindi magari si riescono a risparmiare determinati soldi utilizzando manovalanza non qualificata, facendo insomma delle scorciatoie, invece se consideriamo effettivamente una casa costruita con tutti i crismi, effettivamente, diciamo, siamo lì, siamo intorno al 10% in più. Allora, dagli studi europei, dico, poi l'esperienza dell'ingegnere chiaramente aumenta i costi, ma lì, da quello che ho capito, c'è molta infrastruttura tecnologica, nel senso che ha tutto un sistema domotico che permette di controllare praticamente tutto, quindi insomma bisogna anche capire che cosa si mette dentro la casa per riuscire a fare dei conti economici effettivi. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Stiamo metro a metro studiando la casa ecologica, la casa che risparmia energia. Stiamo cercando di capire se conviene non pagare la bolletta e cercare di trovare un ambiente più confortevole, diciamo, Luca Salvioli. Direi di sì. Abbiamo in collegamento Manrico da Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi dica. Allora, io ho sentito la trasmissione, come sono un abitué della trasmissione, mi piace. Grazie. E tra le altre cose anche un amico che parla parecchio con voi è Saro Capozzoli. Ah, ok. Andiamo subito con la domanda. Sono architetto, faccio parte di un gruppo e noi abbiamo già costruito sia fabbricati di case normali che alberghi. E sì, naturalmente si siamo riusciti ad ottenere dei risultati di questo tipo, cioè case con K termico 0,034. Questo significa che la casa non ha né dispersioni né intrusioni di calore e di freddo. Perfetto. Allora Manrico mi manda una mail a novalab24@radio24.it che mettiamo l'indirizzo, il suo indirizzo, il suo link sul nostro Twitter. Okay. Va bene? Angelo dalla provincia di Mantova, c'è? Buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io ho sentito la sua trasmissione, volevo più che fare una domanda... così esprimervi una mia riflessione. Io faccio l'architetto e mi occupo di... Allora si sente male, però insomma lui si domandava: non conviene costruire una casa bioclimatica a costo energetico zero? Lo chiediamo a Mario Butera. Non conviene, è un'affermazione o una domanda? È una domanda, dice: piuttosto che costruire da zero una casa sostenibile. Diciamo che rispetto a una casa convenzionale, dal mio punto di vista conviene costruire una casa che abbia caratteristiche bioclimatiche e di sostenibilità ambientale, quello senza dubbio, anche perché se si va a vedere il costo complessivo, diciamo, per l'ecosistema di una casa convenzionale è molto più alto di quello di una casa bioclimatica, diciamo, nel senso che se si pensa soltanto al fattore economico effettivamente c'è da spendere di più prima per avere una casa che sia emissioni zero, però dal punto di vista di quello che si guadagna, diciamo, in termini ambientali non c'è paragone. Ecco, prima mi diceva Nino che c'è un buon risparmio anche dal punto di vista fiscale. Mi dà un numero che non abbiamo ancora dato e che secondo me potrebbe essere anche interessante. 55% delle spese connesse con risparmio energetico, secondo le norme pubblicate, sono detraibili nell'arco di 3 anni. Quindi il 55% delle spese sono detraibili in 3 anni, sì, se uno inizia a ristrutturare? Sì, quelle connesse con il risparmio energetico. In più c'è sempre il 36%. E spalmabile su 10 anni sulle spese di ristrutturazione. Quindi anche questi argomenti per me sono stati fondamentali e sono delle norme che assolutamente vanno mantenute se si vuole arrivare a dei risultati concreti. Rientra nel discorso di prima: quanto costa, quanto non costa. Ricordiamoci che poi ti torna sotto questo punto di vista. Esattamente, è stato un punto fondamentale. Ecco, per dire che insomma non stiamo parlando di, io lo risottolineo perché c'è stato un momento che soprattutto sulla tecnologia il verde era marketing, era un annuncio, da qualcosa da dare in pasto ai giornalisti per scrivere un po' di righe sui giornali. Abbiamo in collegamento Enrico Loccioni, che sul terreno del sostenibile ha una iniziativa estremamente interessante, vero Luca? Innanzitutto loro stanno, diciamo, assumendo, cercando 100 giovani che lavorino nel campo della sostenibilità, e questa direi che in questi tempi è buono. E Loccioni è un'azienda marchigiana che nasce nelle soluzioni high-tech, non fanno prodotti ma offrono pacchetti di soluzioni e servizi. Molti giovani dipendenti hanno fatto una leaf house, quindi casa a emissioni zero, e addirittura una community. Vediamo, ci racconti la community. Enrico Loccioni, buongiorno. Buon pomeriggio a voi. E quindi cos'è la forza delle idee? Com'è che funziona questa casa, questo distretto che lei sta in un certo senso costruendo? È un'integrazione tra tecnologie, idee e persone. Sì. Che ha prodotto un sorprendente risultato anche di attenzione della nostra comunità marchigiana, e non solo, proprio come risultato di un progetto avviato qualche anno fa e inaugurato a giugno dell'anno scorso, e ne abbiamo avuto poi in questo periodo una continuità di visite, di scuole, di interlocutori anche da questo territorio che superano le 2000 persone. Ecco, quindi lei cosa ha indetto? Un concorso per 100 giovani talenti, com'è che li definiamo? Allora, per dire gli aspetti, noi siamo, io ho avviato da solo un'impresa 40 anni fa, è cresciuta questa impresa fino ad arrivare a livello internazionale su tutti gli argomenti che riguardano un po' la sostenibilità nel mercato dell'auto, nel mercato degli elettrodomestici, aiutare i clienti a realizzare prodotti meno energivori, fatti in processi meno energivori e in building meno energivori. Però pensando a casa nostra, sì, abbiamo qualche anno fa cominciato a lavorare proprio negli edifici per renderli più sostenibili, più in equilibrio, no? E funziona? Cioè, se assume 100 persone vuol dire che funziona, immagino. Ma funziona perché comunque il mio obiettivo è quello di creare lavoro e sicuramente questa opportunità dell'ambiente, della sostenibilità e di tutto quello che si sta parlando ormai da 15 anni per noi è già diventata realtà dal punto di vista del business, dal punto di vista delle opportunità, ma ritengo che anche per i progetti comunitari 2020 rappresenterà non solo per il nostro gruppo, ma io mi auguro per tante altre realtà, una grandissima, almeno io vedo questo, una grandissima opportunità di lavoro. Ecco, Loccioni, in maniera molto molto sintetica, che cos'è questa community? Ma è semplicemente un insieme di progetti che nel nostro gruppo, all'interno del nostro gruppo, vede realizzate alcune cose e misurate per poter testimoniare. Siccome in effetti è un lavoro nuovo, è un'attività completamente diversa come approccio, come sistema, come integrazione, allora la possibilità, io parlo da marchigiano, da figlio di contadini, no? Perché io vengo da questo ambiente, perciò vedere per credere, cioè peggio di San Tommaso, no? Cioè nel senso che se le cose uno in qualche modo le vede, da contadini poi riusciamo a realizzarle anche nel prossimo vicino. Allora, Grazie Loccioni, noi siamo in collegamento, noi abbiamo visto quindi i risparmi, le detrazioni fiscali, la casa ecologica, abbiamo visto anche che insomma ci sono anche dei posti di lavoro per cui c'è un mercato, adesso andiamo a vedere cosa succede nei laboratori. Siamo in collegamento con Gigi Donelli che è a Trieste all'Area Science Park, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, anch'io ho visto poco fa, ascoltavo il vostro ospite parlare effettivamente delle cose che vanno viste. Io pochi istanti fa ho visto in azione un concentratore di luce solare, cosa che non avevo mai visto. Cioè misurare come una tecnologia migliori, quindi un dispositivo migliori una capacità che peraltro ovviamente è naturale, cioè quella del sole di scaldarci e indirettamente di produrre energia. Ecco, qual è la sensazione? Cioè la sensazione è che nei laboratori si sta puntando molto sul fotovoltaico, ci sono progetti, ci sono idee o ormai insomma la tecnologia ha un po' esaurito la sua corsa? No, al contrario, la sensazione è che abbia appena iniziato la sua corsa. Peraltro i ricercatori, come sai benissimo, questi sono ambienti giovani, per cui si parla anche in maniera rilassata, cioè ti dicono immediatamente noi puntiamo su questi settori perché questi settori sono finanziati in particolare dall'Unione Europea, ma anche dalle aziende. E dove puntano? Cioè l'idea che noi abbiamo, diciamo, di un settore che da un lato per quello che riguarda gli accumulatori termici, quindi quella capacità, avete parlato oggi di casa, di mantenimento del clima e quindi di freddo e caldo, dall'altro proprio di trasformazione, cioè di fotovoltaico e quindi di produzione energetica, è appena iniziato. Pochi istanti fa, come ti dicevo, parlavo con dei ricercatori che stanno ragionando sulla terza e quarta generazione delle cellule per il fotovoltaico, quindi dal silicio verso le celle organiche polimériche. Insomma, una strada complessa, lunga, ma per questi giovani ricercatori, come dire, direi scontata nel senso positivo del termine, perché questa è la direzione e mi fa piacere anche registrare che tutti mi hanno detto riceviamo anche sostegno. Ah beh, questa è la parte importante, perché insomma fino a pochi anni fa erano un po' visti come non dico un buco nero, però non è che c'era così tanta fiducia. Allora faccio un'aggiunta, mi hanno anche detto sostegno poco dall'interno dall'Italia, molto dalle borse europee, per loro è sostanzialmente identico nella pratica, perché è chiaro che la capacità di una struttura come questa, come l'Area Science Park, è quella di attingere dove c'è il finanziamento, ormai come dire fermarsi al confine nazionale è francamente ridicolo. Grazie Gigi Donelli, poi quando torni vediamo di sviluppare altri temi che sono stati sviluppati nei laboratori di Trieste. Io volevo anche salutare Mario Butera che è stato in collegamento fino ad adesso e volevo fare un'ultimissima domanda a Nino. Volevo capire insomma a questo punto qual è la cosa più difficile, qual è l'operazione più difficile nelle case, qual è, o quantomeno qual è, anzi al contrario, qual è insomma l'innovazione più facile da fare nei condomini, se c'è? Secondo me la ribadisco è quella di la coibentazione, ovvero cappotto sulle murature e serramenti di qualità certificata che abbassino la trasmittanza termica. Costo? Costo dipende dalla situazione da cui si parte. Come le dico, nel mio caso, che era una ristrutturazione, questa parte ha preso un buon 7-8%. Quindi una parte notevole, insomma. La parte notevole anche perché le superfici erano piuttosto elevate, tutta la casa ho fatto, e quindi dipende anche. Una villa, una villetta come la mia, una bifamiliare, è più impegnativa da questo punto di vista. Un condominio invece è estremamente attraente. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Google e Microsoft all'insegna di Twitter. I due giganti rivali della rete starebbero trattando separatamente con il servizio di microblogging. Obiettivo: integrare i feed in real time di Twitter all'interno dei risultati di ricerca dei loro motori. YouTube festeggia il miliardo di visite al giorno. Il sito di video streaming ha modificato il suo celebre logo, inserendo un piccolo banner con la scritta 1 billion a indicare il numero di accessi raggiunto. Scelta che sorprende, dato che in giugno YouTube aveva annunciato il superamento di 1,2 miliardi di visitatori. Un bombardamento lunare a caccia di acqua è quello effettuato oggi dalla sonda della NASA per lo studio dei crateri lunari, partita a giugno dalla base di Cape Canaveral, in Florida, che ha lanciato un missile bomba alle 13:31, ora italiana. Tra i detriti sollevati dall'impatto, i ricercatori sperano di trovare vapore acqueo e particelle di ghiaccio. La lavatrice vuole vederci chiaro. Panasonic ha presentato EcoNavi, che nel tentativo di risparmiare acqua usa sensori che si attivano con la luce per intercettare lo sporco sui vestiti e regolare il ciclo di lavaggio di conseguenza. Alla riduzione di sporco non corrisponde però un abbassamento di prezzo, che ammonta a $3,000. Proseguono le giornate milanesi di Innovation Circus, la kermesse di incontri, talk, installazioni e anteprime di prodotti innovativi, alla sua terza edizione. Nella giornata finale di domenica 11 ottobre verrà lanciato alle ore 16 alla Loggia dei Mercanti il concorso di idee dedicato alle innovazioni tecnologiche, con la partecipazione di Bruno Murari, l'inventore del microchip dell'iPhone. La manifestazione si chiuderà con le collezioni dei nuovi stilisti dell'incubatore della moda. Info e programma www.innovationcircus.it. Solo uno spottino, insomma, a Innovation Circus ci saremo noi, gli autori di Nova, ci sarò io, per cui insomma correte. Ma torniamo un attimo e tiriamo le fila di quanto ci siamo detti fino adesso. Casa ecologica, ci sono dei numeri interessanti sul risparmio energetico, ci sono dei numeri altrettanti interessanti, li abbiamo visti sul fronte fiscale, quindi sul fronte anche dei risparmi economici. Abbiamo capito anche che nei laboratori il fotovoltaico è oggetto di ricerca, anzi è un terreno che sta attirando dei finanziamenti. Ma in Italia? Se guardiamo le installazioni, c'è stata una fortissima crescita, siamo nell'ordine del più 400% di potenza installata anno su anno. Adesso siamo oltre 500 megawatt, nel 2008 si è chiuso con 430 megawatt, e a livello mondiale non ce la caviamo malissimo, nonostante la percezione, perché siamo quinti, dopo appunto la Germania che dicevi tu prima, la Spagna, il Giappone, gli Stati Uniti. Chiaro è che girando non ne vedi tantissimi sulle case, quindi bisogna capire quanti vanno sulle case, quanti vanno sui distretti, piccoli distretti industriali, però qualcosa si muove, perché abbiamo il conto energia, che è l'incentivo più generoso del mondo al momento. Anche. Infatti verrà poi rivisto a fine 2010 per evitare che sia troppo generoso, come è successo in Spagna, che poi ha visto un crollo e gente che è rimasta a casa, purtroppo, perché era un settore che non si reggeva da solo. E no, riflettevo su quanto diceva Gigi Donelli prima, che è molto interessante tutta la ricerca che c'è sul fotovoltaico, come è capitato anche cercare di intervistare scienziati, ricercatori che ti guardano entusiasti e ti dicono fra 10 anni arriveremo al 40%. C'è molto interesse, ci sono molti filoni, è una strada... Ecco, un filone, una battuta perché abbiamo poi sulla geotermia, perché noi abbiamo con te analizzato il vento, no, per cui l'eolico, oggi abbiamo visto un po' il solare, sulla geotermia tu personalmente come la vedi? La geotermia in Italia, l'Italia è molto dotata sotto questo punto di vista, soprattutto appunto sotto, nel sottosuolo siamo ben dotati di questa fonte, per l'utilizzo di questa fonte, e siamo stati anche i primi insomma negli anni 60 a utilizzarla, quindi è una prospettiva interessante. Certo ci vuole qualche lavoro in più rispetto probabilmente a mettersi un pannello fotovoltaico. Quindi Luca Salvioli tornerà a trovarci prestissimo? Certo, caspita, appena si parla di energia ben volentieri. Io saluto Nino Frosio, la ringrazio. Prego. E saluto gli ascoltatori, l'appuntamento è per lunedì sempre alle 4. Arrivederci. Nova Lab 24.